Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti. Noi siamo pronti in regia, la parte tecnica abbiamo Giorgio Matè, in redazione Laura Vanossi. Pronto il nostro numero verde, già in attesa delle vostre chiamate, 800 24 0024 e naturalmente i temi del nostro sommario: tiroide e dintorni, unghie, impara ad osservarle. Parte Nastro Rosa, una campagna che ha a cuore la salute della donna. Oggi ci occupiamo di una ghiandola molto importante, parliamo di tiroide. Sappiamo che può funzionare troppo, al contrario essere un po' pigra, infiammarsi, ma anche diventare sede di noduli, ed è di queste formazioni che parleremo oggi insieme ai nostri esperti. In linea con noi il professor Massimino D'Armiento, ordinario di endocrinologia alla Sapienza di Roma e direttore del Centro Malattie della Tiroide all'ospedale Umberto I di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Professore, comuni e in crescita. Stando ai dati, una persona su due sviluppa nel corso della propria vita un nodulo tiroideo, anche piccolissimo, quasi impercettibile. Molti non vengono mai scoperti, altri si scoprono per caso, ad esempio facendo una radiografia alla ghiandola. Sta di fatto che i noduli rappresentano un problema molto diffuso. In teoria, professore, potremmo anche averli e non saperlo. Ma c'è una tipologia di persone più a rischio di altre? Allora, sicuramente sì. Volevo prima precisare che quello che ha detto lei è esattamente vero, di questa aumentata incidenza dei noduli, tanto che noi oggi possiamo addirittura parlare di epidemia del nodulo tiroideo per la enorme diffusione. E se lei considera che la popolazione adulta italiana è di circa 40 milioni di persone, sì, noi possiamo calcolare per questa prevalenza che ben 12 milioni di persone sicuramente hanno uno o più noduli della tiroide. E questo chiaramente mette a dura prova tutte le nostre strutture sanitarie per la grande richiesta di prestazioni diagnostiche per questa patologia. Riguardo a quello che mi chiedeva lei sulle persone che possono essere più a rischio, diciamo che il primo rischio è quello del genere, come si dice adesso, cioè sì, del sesso. Sono le donne, ahimè, preferite per questa patologia, perché gli estrogeni, cioè l'ormone tipico ovviamente del sesso femminile, promuovono in generale la crescita di tutti i tessuti e quindi anche della tiroide. Specialmente le donne durante o dopo le gravidanze, perché la gravidanza porta ad un affaticamento, ad un super lavoro della tiroide, e se non adeguatamente supportata la funzione della tiroide con un adeguato apporto di iodio, ma poi ne parleremo, questa ghiandola tiroidea può essere colpita dopo la gravidanza da noduli. Un altro fattore, diciamo così, favorente la comparsa dei noduli è sicuramente la familiarità. Chi in famiglia ha avuto parenti e affetti da noduli tiroidei è più a rischio. Ancora, chi proviene da zone, e mi riferisco a quello che dicevo prima, ha scarso apporto alimentare di iodio. Questi sono quindi molto schematicamente le condizioni che favoriscono la comparsa di un nodulo della tiroide. Bene, professore, una cosa è certa: quando dopo un'ecografia sul referto si legge nodulo tiroideo, un po' di ansia viene, perché la parola nodulo evoca subito qualcosa di sospetto. Sentiamo il nostro sondaggio. Eh beh, non è che sia una passeggiata di salute. Certo, ne sarei molto preoccupata, anche perché quando si parla di nodulo dovrebbe essere un tumore, sperando che sia benigno, però sarei sempre preoccupata ovviamente. Mi fa paura solo pensarci, anche se non è detto che siano maligni, però mi danno l'idea di essere qualcosa di molto molto delicato. Se devo essere sincero, non so nemmeno dove sia la tiroide, però cercherei di informarmi vista la gravità della diagnosi. Beh, di sicuro non mi preoccuperei un po', insomma, chiederei informazioni più dettagliate, così, per sentito dire, per conoscenza comune, diciamo che è una cosa che desta un po' di preoccupazione. Io appena sento parlare di noduli, io mi spavento subito, non assolutamente. Se poi si parla anche di tiroide, che per quanto ne so io, dà tantissimi problemi alla gente, sì, mi spaventerei, devo dire proprio di sì. Beh, non conosco la malattia, però sicuramente mi preoccupa abbastanza. Diciamo che farei degli approfondimenti, andrei subito dal mio medico a chiedere quali sono le conseguenze. Professore, e noi la domanda, le informazioni le chiediamo a lei. Intanto invito i nostri ascoltatori a chiamarci all'824-0024. Professore, allora, di fronte a un nodulo alla tiroide ci arriva questa diagnosi, noi che cosa dobbiamo fare? Stare tranquilli, mediamente tranquilli, o sono giuste le preoccupazioni del nostro sondaggio? Allora, la parola che ho più sentito dal sondaggio è quella di preoccupazione. Io preferirei che invece venisse sostituita questa parola dal fatto che bisogna occuparsi di questo nodulo e non di preoccuparsi. Perché, e qui ci aiuta un'altra volta l'epidemiologia, nell'ambito di questo enorme numero di noduli tiroidei, ripeto, circa 12 milioni in Italia, per fortuna soltanto una minima quantità, non più del 3-4%, alberga una carcinoma, un tumore tiroideo. Quindi il concetto che deve essere chiaro è che la stragrande maggioranza dei noduli tiroidei è una patologia benigna e quindi dobbiamo con molta razionalità cercare tutte le indagini cliniche, strumentari e di laboratorio che possono escludere quella piccolissima quota di noduli maligni. Di questo parleremo diffusamente nel corso della nostra trasmissione, ma prima, professore, volevo chiedere se il nodulo, i noduli, lei ha detto che possono anche essere più di uno, certo, sono sempre asintomatici o invece possono darci qualche segnale? La domanda mi è venuta leggendo un SMS di Bruno Da Luca che ci scrive: da qualche mese a questa parte devo sempre schiarirmi la voce perché avverto come una pressione sotto il pomo d'Adamo. Mia moglie nota un leggero rigonfiamento. Potrebbe essere un nodulo? Molto probabilmente sì, perché la prima manifestazione del nodulo tiroideo, quando raggiunge una certa dimensione, oltre il centimetro, è quello della comparsa di una tumefazione, di un bozzo, diciamo così, sulla superficie anteriore del collo. Le persone se ne accorgono facilmente o perché degli amici glielo dicono o vedendosi allo specchio tutte le mattine. A volte, quando il nodulo è particolarmente voluminoso, noi diciamo sopra i 2,5 cm, 3 cm, può dare delle compressioni sulle strutture vicine, che sono la trachea, l'esofago, e quindi creare dei disturbi tipo quelli del radioascoltatore. Però ci tenevo a sottolineare che la presenza eventuale di questi disturbi non significa di per sé che la tumefazione è maligna, perché, ripeto, è solo dipendente dal volume della lesione. E anche una lesione benigna, come una cisti, se molto voluminosa, può comprimere la trachea e l'esofago e quindi dare disturbi alla deglutizione, disturbi alla respirazione o abbassamenti del tono della voce. Bene, restate con noi se avete un sospetto, se avete familiarità con le patologie tiroidee, se rientrate un po' nel profilo della persona a rischio descritta dal professor Darmiento, e naturalmente restate con noi se avete ricevuto una diagnosi di un nodulo alla tiroide. Andremo col professor Darmiento a vedere quali sono gli esami da fare e come bisogna intervenire in quali casi. 824 0024, questo è il nostro numero verde a vostra disposizione, così come il numero per inviare i messaggi 349-238-6666. Una mela al giorno. Unghie, anche loro possono darci qualche piccolo problema. Ci è arrivata una mail di una nostra ascoltatrice, Marcella, una mail molto lunga che noi riassumiamo perché Marcella ci ha descritto anche tutta una trafila di ipotesi e di contatti. In pratica Marcella ha un problema: le unghie sembra non crescano bene, sembra quasi bloccata la crescita, e quando crescono assumono una forma un po' incurvata. Noi abbiamo raggiunto, per saperne di più, la professoressa Antonella Tosti, professore ordinario di clinica dermatologica presso l'Università di Bologna. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. Professoressa, si dice sempre che le unghie sono un po' lo specchio della nostra salute. Ma a volte si dice anche troppo, perché non sempre le alterazioni ungueali sono segno di manifestazioni generali, anzi molto più spesso sono conseguenza di traumi esterni, però a volte le unghie possono essere il primo segno di un problema interno. Allora, quello che lei mi stava sottoponendo, sì, esatto. Queste unghie che non crescono, crescono e quando lo fanno crescono male, un po' ad artiglio. Allora, secondo me il problema dell'unghia che non cresce va sempre valutato bene, soprattutto se si tratta delle unghie delle mani. Sì. Perché esiste una sindrome che si chiama sindrome delle unghie gialle, che è caratterizzata proprio dal fatto che le unghie smettono di crescere o comunque crescono pochissimo, sì. Quindi la persona non ha bisogno di tagliarle e come conseguenza del fatto che non crescono si spessiscono e possono assumere un colorito giallastro, brunastro. Ora, queste alterazioni ungueali possono essere, sono spesso il segno di problemi di tipo respiratorio, broncopneumonico, e questa sindrome è proprio caratterizzata dal fatto che ci sono le alterazioni ungueali, ci sono delle manifestazioni a livello appunto dell'apparato respiratorio e in genere anche un linfedema cronico. Quindi questo è proprio un caso in cui le unghie possono essere il primo segno di altri problemi di tipo internistico. Quindi una spia che ci porta a fare indagini ulteriori. Una radiografia del torace, consultare un pneumologo. È importante chiarire questo, perché appunto il fatto che le unghie smettano di crescere non è un buon segno. Tipico di questa sindrome. Professoressa, con lei abbiamo già dedicato delle trasmissioni intere alle unghie, abbiamo capito ad esempio che quelle macchie bianche che appaiono nelle unghie, c'è qualcuno che le chiama le bugie, non sono pericolose. Invece vorrei capire da lei se ci sono dei segnali che vanno tenuti sotto controllo, ad esempio macchioline più scure, che più che macchie assumono la forma di strisce. Una pigmentazione longitudinale dell'unghia, o comunque una pigmentazione dell'unghia di colorito bruno o di colorito nero, deve sempre portare a una visita specialistica, perché a livello dell'unghia possono formarsi dei nevi, come quelli che si hanno a livello della pelle, e purtroppo a volte anche un tumore maligno dei melanociti, che è il melanoma. Quindi è molto importante che se le unghie presentano delle strisce longitudinali pigmentate o comunque una pigmentazione scura, consultare al medico, si scura. Però può essere anche bruno chiara, diciamo bruno nera. È chiaro che la diagnosi differenziale più importante è con l'ematoma, cioè con lo stravaso di sangue che consegue un trauma. Però a volte il melanoma dell'unghia può insorgere dopo un trauma, quindi è sempre importante rivolgersi al medico, sono lesioni da tenere sotto controllo. Professoressa Tosti, la ringrazio, le auguro una buona giornata, ci sentiamo presto, magari per affrontare, perché no, le unghie dei piedi, anche loro qualche problema riescono a darcelo. Certamente, arrivederci. Grazie, buona giornata. Pronto soccorso. Noduli alla tiroide interessano una persona su due, sono in aumento, per fortuna nella maggior parte dei casi si tratta di formazioni benigne, ma come spiegare questi numeri? Sicuramente il fatto che ci siano a disposizione del medico esami diagnostici più raffinati permettono di individuare e anche di vedere là dove un tempo non si poteva vedere, ma ci sono altre cause, professor Darmiento, che possono spiegare questi numeri? Condizioni, abbiamo visto magari la gravidanza che è una condizione un po' più a rischio per la tiroide, ma certo. Fattori ambientali, stile di vita. Professore. Tra le situazioni ambientali e lo stile di vita, quello che pesa molto di più è l'apporto iodico, perché non so se i nostri ascoltatori sanno che la tiroide funziona perché noi assumiamo iodio, è sì. Un pochino il carburante per la tiroide. In Italia, nonostante l'introduzione di una legge del 2005 che prevede l'obbligatorietà della vendita del sale iodato rispetto al sale non iodato, ancora il consumo di questo sale iodato è intorno al 50%, quindi non è ottimale. E questa situazione comporta un rischio sicuramente per la formazione di noduli. Ancora altri fattori di rischio possono essere quello delle radiazioni, non so se ne vogliamo parlare, certo, adesso o più tardi, le quali radiazioni poi non solo favoriscono la insorgenza di noduli, ma sono dei fattori predisponenti per la loro trasformazione maligna. Quindi direi familiarità, gravidanza, apporto iodico ottimale e radiazioni. Tornerei anche sul sale iodato, ma abbiamo Pasquale da Napoli che ci chiama all'800 24 00 24, quindi precedenza ai nostri ascoltatori. Pasquale, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. No, volevo chiedere al professore, no? Sì. Io ho un nodulo da 3 centimetri. Mm. Ho fatto l'ago aspirato. Sì. Ogni quanto tempo bisogna ripeterlo, e se conveniva operarmi, cioè toglierlo sto nodulo, oppure convivere? Sì. Questa è la domanda che volevo fare, grazie. Grazie Pasquale. Professor D'Armiento, Pasquale dice ogni quanto l'ago aspirato, e soprattutto magari uno toglie il nodulo, toglie il problema. Cosa possiamo rispondere? Dunque, allora, prima di tutto dobbiamo dire qualche cosa dell'ago aspirato, o non so se ne vogliamo parlare adesso o dopo. In sì. linea di massima, un nodulo di 3 centimetri è ai limiti dell'operabilità, cioè del consiglio di operarsi, perché un nodulo così voluminoso potrebbe dare quei disturbi di compressione che dicevamo prima, sì. cioè della respirazione o della deglutizione. Dipende molto dal quello che è stato il responso dell'ago aspirato, perché l'ago aspirato può dare un responso di una lesione sicuramente benigna, e allora è sufficiente un controllo periodico con una ripetizione dell'ago aspirato dopo circa 2 anni, che se conferma la benignità della lesione possiamo stare in genere tranquilli. Se invece l'ago aspirato ha dato una risposta di malignità, è ovvio, ma non è questo certo il caso del paziente, è ovvio che bisogna fare subito l'intervento con estirpazione totale della tiroide, non soltanto di quel nodulo, perché il tumore potrebbe poi evidenziarsi anche nell'altro lobo. Quindi essenzialmente direi al nostro radioascoltatore che se il referto del suo ago aspirato è stato di cellule benigne, lo può tenere questo nodulo facendolo controllare ecograficamente e clinicamente ogni anno e mezzo, ma se dovesse avere dei disturbi tipo quelli del primo radioascoltatore, sulla deglutizione per esempio, allora è indicato l'intervento chirurgico, non perché la lesione è maligna, ma perché già è di 3 centimetri. Professore, però prima di arrivare all'ago aspirato di Pasquale, ci sono degli altri esami che possono già orientare il medico, perché l'ago aspirato è una richiesta che viene fatta se alcuni esami non danno degli esiti, non chiariscono esattamente la natura del nodulo, o sbaglio? E quali sono? Proprio così, perché l'ago aspirato deve essere il punto finale di arrivo dell'iter diagnostico. Visto quei grossi numeri che si diceva prima, noi non possiamo certo sottoporre ad ago aspirato, si immagini lei, 12 milioni di persone in Italia, orientativamente. Certo. No? Allora, le prime armi che ha il medico sono quelle di raccogliere la storia del paziente. Se un paziente è a rischio per la sua familiarità, che è, come abbiamo detto, o per le radiazioni accidentali o terapeutiche che ha avuto, o perché questo nodulo, un aspetto molto importante, lui ci racconta che è aumentato di volume nel corso dei mesi e degli anni, questi sono dei fattori di rischio che impongono una valutazione successiva. Non solo, il medico, prima di passare agli esami strumentali di cui diremo, ha a disposizione quello che noi chiamiamo l'esame obiettivo, cioè la visita del paziente. E visitando il paziente si possono notare i caratteri di questo nodulo. Se un nodulo è particolarmente duro, se è fisso, diciamo, cioè non è mobile durante la deglutizione, quello sicuramente è un fattore di rischio che può far pensare ad un nodulo maligno. Quindi, dopo aver fatto queste due prime analisi, la storia del paziente e la visita, abbiamo uno strumento fondamentale che è quello dell'ecografia. E anche l'ecografia ci dà moltissime indicazioni, perché un nodulo sospetto, la minoranza, avrà quasi sicuramente uno o più di questi caratteri che adesso le dico. I margini irregolari, sì. cioè i confini di questo nodulo, sono irregolari proprio perché alberga probabilmente un tumore. ha una caratteristica ecografica che noi chiamiamo, che è il nodulo ipoecogeno, cioè trasmette le onde dell'ecografia più del tessuto vicino, e poi, molto importante, può avere delle microcalcificazioni. Quindi uno o più di questi dati orienta verso una possibile malignità, e solo in questi casi si procede all'ago aspirato. Proprio così. Cercheremo di capire se l'ago aspirato evidenzia chiaramente la situazione, è proprio efficace per fare diagnosi, perché c'è anche un nuovo test per identificare i noduli sospetti. Cercheremo di capire in quali casi è suggerito e soprattutto che sicurezza offre. Faremo una sorta di confronto. Intanto abbiamo Massimo da Pavia che è in linea con noi, che io saluto. Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei. Massimo, io devo portarla con me a sentire gli aggiornamenti dei mercati finanziari e il meteo, e poi il professor Darmiento è pronto per dare una risposta al suo quesito. Ci sta? Ci accompagna? Sono in attesa. Va bene, grazie Massimo. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di noduli alla tiroide. In linea con noi abbiamo Massimo da Pavia. Buongiorno Massimo, è arrivato il suo momento. Va bene. Ascolti, sarò veloce. Io 15 anni fa sono stato operato di una cisti mediana del collo perché avevo un grosso rigonfiamento nella zona tiroidea. Asportata questa cisti, analizzato, tutto ok. L'eredità è stata che ho comunque sempre avuto un timbro di voce diverso rispetto a prima, un facile affaticamento della voce e comunque sempre la necessità di schiarirmi la voce nel corso della giornata. Questo per tutti questi 10 anni. Negli ultimi mesi ho notato un acuirsi di questi, chiamiamoli, disturbi. Ora, il fatto che questi disturbi si siano, diciamo, accentuati in questi ultimi mesi può determinare una recrudescenza di un'altra ciste o necessita, secondo voi, di analisi approfondite, oppure può essere normale evoluzione del fatto che io ho avuto questo tipo di operazioni, chiamiamolo così, 15 anni fa? Grazie Massimo. Professor Darmiento. Dunque, allora penso che la cosa principale, se non l'ha già fatta il signor Massimo, è quello di un controllo da parte dell'otorino, che possa vedere la motilità delle corde vocali e se l'intervento sulla cisti mediana del collo abbia apportato delle modifiche a queste strutture, cose che io non penso. Quello che sicuramente va fatto periodicamente, visto che una piccola parte di tiroide è sempre stata tolta, fare dei periodici accertamenti della funzione tiroidea. Quindi è l'otorino qui che deve controllare la situazione. Abbiamo in linea con noi Vincenzo da Milano, poi parleremo di ago aspirato per vedere se rimangono delle zone d'ombre, se ci sono delle alternative. Vincenzo da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Volevo dire, io ho 60 anni e sono diventato intollerante al sale. Volevo chiedere al professore in che modo si può assumere lo iodio oltre che col sale. Grazie Vincenzo. Professore, noi sappiamo che consumiamo sempre un po' di sale in più di quello che viene consigliato per la nostra salute, quindi dobbiamo tenerci un po' basso nel consumo di sale e preferire quello iodato. Daremo però dei consigli, ma soprattutto nel caso del nostro ascoltatore, ci sono delle fonti alternative al sale iodato per lo iodio? Dunque, allora la massima che noi tireologi vogliamo diffondere nella popolazione è usare poco sale, ma quel poco sale che usiamo iodato deve essere tutto iodato. Quindi, stabilito questo fatto, le altre fonti di iodio sono quelle degli alimenti marini, ovviamente. Quindi consigliare l'uso dei prodotti ittici, che non solo dà un apporto iodico ottimale, ma aiuta a tenere basso il colesterolo per il contenuto in acidi particolari che contengono i prodotti ittici. Quindi queste mi sembrano delle semplici accorgimenti in cucina. Rispondiamo anche ai messaggi dei nostri ascoltatori. Maria ci scrive se si può dare sale iodato sin dalla tenera età ai bambini. Assolutamente sì, da quando il pediatra dice che il bambino comincia a mangiare le pappine è fondamentale l'uso di piccolissime quantità di sale, ma che sia iodato, perché proprio in quell'età della crescita, come durante la gravidanza, che la tiroide ha bisogno di un supporto adeguato di iodio. D'altronde i bambini hanno una grande fortuna, dottoressa, quella di assumere in genere elevate quantità di latte, e il latte è una fonte ottima di iodio, oltre a tante altre buone cose che contiene. Professore, torniamo rapidamente al lago aspirato, perché poi entreremo in sala operatoria. Lago aspirato, alternative? Dunque, lago aspirato non ha alternative nei casi che abbiamo detto prima, in cui il nodulo è definito a rischio. Bisogna però fare una sola considerazione, che l'ago aspirato nell'85-90% dei casi è diagnostico, cioè ci dice la lesione benigna e finiscono le nostre preoccupazioni, oppure la lesione maligna e bisogna entrare in camera operatoria. Ma c'è anche una piccola zona intermedia di un 15% dei casi, 10-15% dei casi, in cui c'è una zona d'ombra, in cui non riusciamo a stabilire se le cellule che prendiamo attraverso questa puntura che facciamo con aspirazione dal nodulo tiroideo siano francamente benigne o francamente maligne. Oggi ci sono dei tentativi per cercare di ridurre questa zona di ombra, perché è chiaro che se rimaniamo nell'incertezza noi dobbiamo sempre entrare in camera operatoria, perché nel rischio, nel dubbio, non possiamo rischiare di tenerci una lesione maligna. Oggi ci sono dei sistemi di analisi genetica, di espressione genetica o immunoistochimica, uno dei questi è quello della galectina, cioè andare a vedere l'espressione di questa proteina particolare, perché sembra, ma non sono notizie assolutamente confermate, che si associ con una maggiore frequenza la positività di questo, per così dire, marker ad una malignità. Comunque, professore, abbiamo visto che lo sforzo, il vostro sforzo, è di selezionare con grandi scrupoli i casi da sottoporre al chirurgo per evitare operazioni inutili. Nel dubbio, però, meglio operare. E noi entriamo in sala operatoria, perché in linea con noi è tornato a trovarci, come promesso, il professor Paolo Miccoli. Professore, bentornato, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell'Università di Pisa. Allora, quando bisogna intervenire, il professor Darmiento già nel corso della trasmissione ci ha illustrato i casi, io darei la voce ai nostri ascoltatori che magari in questa occasione possono approfittare dell'endocrinologo e del chirurgo. Abbiamo in linea con noi Antonio da Milano. Buongiorno Antonio. Sì, buongiorno. Senta, spero di essere chiaro perché sono un po' emozionato. E niente, il mio problema è questo qui. Io 3 mesi fa ho fatto un'ecografia per un dolore al collo, così per scrupolo ho chiesto al mio medico di poter fare un'ecografia alla tiroide. Sì. È risultato un piccolo nodulo di 1,5 cm più o meno. E niente, mi diceva, allora, durante l'ecografia dice che il nodulo è benigno, sì, aspetto benigno, con un piccolo orlo di capsulo venoso, ipocogeno, una cosa del genere. Sì, detto, quello di cui non parlava il professor Darmiento. Esatto. E niente, però mi diceva di non preoccuparmi perché ha detto l'aspetto è benigno, quindi ha detto così, di rifare l'ecografia a distanza di 3 mesi per vedere l'evolversi. Adesso l'ho rifatto, mi ha detto la stessa cosa, che è ancora benigno e così. Volevo sapere, sì, se dovrei fare altri esami particolari o rivolgermi a un endocrinologo, e se c'era un collegamento con un attacco massiccio facciale che ho fatto in quest'inverno, diciamo. Grazie per la domanda. Io chiederei un consulto doppio al professor Darmiento e al professor Miccoli. Professor Darmiento. L'esame obiettivo, l'esame ecografico hanno dimostrato che il nodulo non è a particolare rischio, va sicuramente bene un periodico follow up dall'endocrinologo con un'ecografia ripetuta, e la TAC fatta poco tempo fa non ha alcun riferimento con questa patologia. Quindi, professor Miccoli, lei non avrebbe lavoro in quel... Diciamo in questo specifico in questo caso, specifico caso concordo, no. Concordo con Darmiento, intanto sicuramente non vi è nessun legame con l'attacco collo testa che ha fatto il paziente, questo va ribadito, questo tipo di rischio non esiste proprio. Quanto agli aspetti ecografici, è vero che esistono dei noduli che hanno una tale espressione ecografica di benignità che ci si astiene anche dal fare l'ago aspirato. E peraltro anche le dimensioni del nodulo sono in favore certamente di una forma non aggressiva. Il controllo, non direi che un controllo a 3 mesi che abbia manifestato un non aumento aumento dimensionale sia particolarmente effettivo, 3 mesi sono pochi. Io penso che un controllo annuale o biannuale, cioè 2 volte l'anno, sia più che sufficiente. Mi sembra un eccesso di medicalizzazione sottoporre il paziente a ripetuti esami addirittura ogni 3 mesi. Non mi sembra che sia questo il modo di tranquillizzare i pazienti. Penso che si possa essere... Controlli quando devono essere fatti, ma non così ravvicinati, giusto, sì, professore? Questa è la mia opinione. Se posso aggiungere appunto qualcosa a quanto Darmieto ha già detto con molta chiarezza. Abbiamo Agostino che ci chiama dalla provincia di Milano. Vediamo, Agostino, il problema di Agostino per indirizzarlo al professor Darmieto e al professor Miccoli. Buongiorno Agostino. Buongiorno a lei. Il mio intervento non è per una questione che riguarda chi vi parla, ma è per la figlia. Sì. Sa che la tiroide ama noi donne, Agostino. Sì. Predilige le migliori, si dice così, questa no? È una vostra, tra virgolette, croce. Sì. Ecco, io vedo la figlia particolarmente terrorizzata perché recentemente gli hanno diagnosticato e ha fatto anche un esame di cui io non ho presente alcun che. Sì, ma cosa le hanno trovato? Dei noduli? Hanno trovato 3 noduli sul tiroide, di cui uno pare sia oltre i 2 centimetri. Sì. Ora, la figlia canta e la sua perplessità e il suo terrore penso anche sia correlato in qualche modo a questa sua attività. Certo. No? Che ovviamente propone, credo nella sua testa, no, tre domande. No? Se devo arrivare ad operarmi, no? Qua, dove potrei rivolgermi? Qual è il centro più specializzato per avere meno conseguenze possibili? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è quali conseguenze potrà avere la voce, quali disturbi e quale potrebbe essere l'aspetto estetico, no, dopo l'operazione. Però... domande assolutamente legittime che noi giriamo al professor Miccoli, però prima, professore, si prepari per tranquillizzare anche Agostino, il papà di una signora che fa anche la cantante, quindi problemi magari alle corde vocali dopo l'operazione. Professor Miccoli, sì, ecco. Allora, noduli, donna, sì, cantante, sì. Un nodulo oltre 2 centimetri, che si fa? La domanda è articolata e quindi necessita di una risposta articolata. Allora, l'indicazione chirurgica potrebbe esserci sicuramente, siamo davanti a un nodulo di 2 centimetri, se, come si diceva nella prima parte della trasmissione, si dovesse configurare un elemento di sospetto all'ago aspirato o anche semplicemente all'ecografia, è evidente che si potrebbe porre la necessità di un intervento chirurgico. E qui arriviamo alla domanda fondamentale, da chi farsi operare in questo caso? Ma sostanzialmente direi farsi operare da chirurghi che abbiano esperienza in chirurgia tiroidea. E potrei suggerire un metodo che usano gli anglosassoni, numero di interventi fatti per anno. Certamente è una chirurgia che dovrebbe essere fatta da persone che possono vantare un'esperienza importante, quindi sicuramente centri dove si pratica. La quantità meno... fa anche la qualità, in un certo senso. La quantità fa anche la qualità, perché la quantità esprime esperienza. Sì. E indubbiamente centri più rinomati continuano a raccogliere più pazienti, quindi una specie di cut-off che gli anglosassoni pongono, per esempio, è quello di almeno un 300-400 interventi l'anno. Sicuramente persone che operano su questi numeri sono qualificati ad esprimere il meglio della chirurgia tiroidea. Una cosa è anche da chiarire: i cambiamenti di voce in corso e dopo chirurgia tiroidea si possono verificare anche indipendentemente da errori o complicanze mediche, perché indubbiamente un'ampia incisione del collo altera un pochino la cassa armonica che è il collo rispetto alle corde vocali, quindi anche in presenza di corde vocali normali la voce percepita dal paziente potrebbe cambiare un po' dopo. E non è quindi chirurgico. Sempre colpa del medico. Esatto, non è sempre colpa del chirurgo, non è necessariamente una situazione irreversibile. Io ho avuto esperienza operando anche cantanti professionisti, i quali hanno dovuto, questo certamente sì, riabituarsi a un timbro che può apparire diverso alle orecchie del paziente stesso, ma ristudiando, diciamo, la tessitura eccetera, si riesce a raggiungere poi dei livelli di performance assolutamente identici agli altri, e abbiamo operato personaggi di spettacolo, eccetera, che oggi continuano a parlare e a deliziarci in tutti i modi. E noi non ce ne siamo neanche accorte, quindi vuol dire che c'è questa sorta di riabilitazione, professor Miccoli. Esatto, sicuramente questo è il giusto, la giusta evoluzione di un atto chirurgico, è una riabilitazione, come c'è in chirurgia ortopedica, si può dare il caso che sia necessaria anche in chirurgia tiroidea. Vengo al punto che per certi versi è corollario di questo, l'aspetto estetico. Giusto, si tratta sicuramente di una paziente giovane, anche da quanto capisco, quindi la persona che offre, diciamo, la sua cosmesi anche nel mondo dello spettacolo, perché è una cantante, quindi la preoccupazione dell'incisione e quindi la cicatrice è più che legittima. Direi se e come si configura questo caso di un nodulo contenuto entro i 2 centimetri, si pone allora la fortunata coincidenza che la paziente può fare un intervento di chirurgia mini-invasiva, quindi con incisioni di 1,5 centimetri, sicuramente un risultato estetico che era 10 anni fa abbastanza impensabile e che oggi, per quello che è la mia esperienza, soddisfa largamente i pazienti. Quindi, mi scusi, professore, non è un messaggio di certezza assoluta, credo che questo mio possa essere un messaggio di grande incoraggiamento. Per certo, assolutamente. Professore, lei ha fatto riferimento alle dimensioni del nodulo, perché la tecnica di cui lei parla e che è stata appunto portata avanti, individuata proprio dalla sua equipe, non è un'alternativa a quella tradizionale, perché ci vogliono delle indicazioni precise. Il nodulo deve essere piccolo e la tiroide anche, ho capito bene? Certo, noi diamo delle indicazioni che devono essere seguite tassativamente. Se il nodulo supera i 3 centimetri, 3,5 centimetri, allora questo intervento diventa indaginoso, per certi versi potrebbe diventare addirittura più rischioso, e anche il volume tiroideo totale, quindi noi diamo delle indicazioni di questo tipo, noduli contenuti entro i 3 centimetri e un volume tiroideo totale che non superi i 20 millilitri. Questo significa non più del 20-25% di tutta la chirurgia. Purtroppo in Italia ancora i piani di profilassi iodica non hanno sortito effetti, diciamo, su tutta la popolazione, quindi noi purtroppo abbiamo ancora a che fare, come il professor D'Armiento potrebbe confermare, con popolazioni che hanno gozzi grossi e i quali non possono approfittare di questo tipo di chirurgia mini-invasiva video. Professore, con questa tecnica potete asportare anche noduli maligni, vero? Se questo sono di piccole dimensioni, se la tiroide è piccola e quant'altro. Senz'altro, anzi la maggiore indicazione ora nella mia personale casistica sono proprio i piccoli carcinomi papillari, che peraltro quando sono di queste dimensioni prediligono proprio le donne giovani, quindi c'è una felice comunione, diciamo, di intenti fra il chirurgo e il paziente in questo caso. Volevo chiudere con 2 SMS che riguardano ancora l'uso del sale iodato. Enrica da Bergamo, professor D'Armiento, ci scrive: è vero che quando ci sono già i noduli è inutile usare sale iodato, anzi potrebbe essere dannoso? È molto, molto in parte questa risposta. In realtà il sale iodato, l'effetto benefico maggiore si ha nell'età evolutiva durante le gravidanze. Però se lei considera che in una famiglia anche di persone anziane affette già da noduli ci sono spesso anche bambini, dei ragazzi, eccetera, non possiamo far passare il messaggio che bisogna usare 2 tipi di sale. Lei con una risposta me ne ha date 2, perché la seconda domanda che volevo farle era relativa alla gravidanza, sì al sale iodato in gravidanza? Ah, questa è una cosa fondamentale e vorrei poter spendere 30 secondi in più su questo problema della gravidanza. Senta, professore, io direi, dato che volevamo... mi bruci tutti gli argomenti, perché io vado in onda tutti i giorni, invece alla gravidanza, che stiamo organizzando una puntata, dedicheremo proprio uno spazio sui consigli, le precisazioni, le cose da assumere. Professore, con molto piacere, okay, allora è un argomento importantissimo quello che riguarda la funzione tiroidea in gravidanza e noi ne parleremo, e quindi ci teniamo questa carta. Ringrazio il professor Miccoli per essere stato con noi, ringrazio il professor D'Armiento e vi auguro una buona giornata. Grazie, buona giornata a lei. Grazie, arrivederci. Prima di salutarvi voglio darvi un avviso importante. Oggi parte Nastro Rosa, una campagna che ha a cuore la salute delle donne. Per tutto il mese di ottobre la LILT, ormai è un appuntamento che conosciamo bene, la LILT è la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, mette a disposizione i propri ambulatori per la prevenzione del tumore al seno. Oggi ne parliamo col professor Francesco Schittulli, senologo, chirurgo all'Istituto Tumori di Bari e presidente della LILT. Professore, buongiorno. buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Professor Schittulli, battilo sul tempo, questo è lo slogan della campagna di quest'anno, perché ancora una volta si vuole trasmettere, si vuole sottolineare che la prevenzione e la diagnosi precoce salvano la vita. Certamente, perché per quanto riguarda il tumore della mammella, 30 anni fa registravamo una guaribilità che si aggirava intorno al 35% dei casi. Oggi abbiamo superato l'80% dei casi e sappiamo che se facessimo prevenzione per quanto riguarda i tumori della mammella, diagnosi precoce, noi potremmo riuscire non a curare, perché si cura tutto, ma a guarire oltre l'88% di tutti i tipi di cancro, avvicinarci quindi alla meta che è del 100%. Questo perché oggi disponiamo di una diagnostica molto più attenta, più precisa, più puntuale, più sofisticata, che ci consente di scoprire delle lesioni minimali. E quando la lesione, il tumore è di pochi millimetri, la guaribilità sfiora il 100%, arriviamo al 98%. Questo perché la lesione ha una aggressività, un indice di malignità molto bassa, e la mortalità diminuisce proprio perché facciamo prevenzione, facciamo diagnosi precoce, disponiamo di farmaci innovativi e stiamo cercando di creare quella e di diffondere quella cultura della prevenzione come metodo di vita. Quindi un invito che rivolgiamo a tutte le amiche in ascolto a casa: prevenzione e diagnosi precoce per battere sul tempo questo nemico della salute della donna. E quindi controlli, potete telefonare al numero verde che la Lille mette a disposizione e sapere quindi l'ambulatorio più vicino a casa vostra. 800 99 88 77, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, quindi non abbiamo scuse, ma possiamo anche andare sul sito della Lilt, www.lilt.it. Professor Schittulli, la ringrazio. Grazie a voi e buona giornata a voi che ci avete ascoltato e seguito. Vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Vi aspetto. Un saluto da Nicoletta Carbone.